Before the next dialogue, here are the new words and phrases. Ascolti l'italiano, l'inglese, di nuovo l'italiano e ripeta. Cominciamo. Di secondo. For the second course. Di secondo. Un'insalata mista. A mixed salad. Un'insalata mista. Per me. For me. Per me. Del formaggio pecorino. Some sheep's cheese. Del formaggio pecorino. Da bere. To drink. Da bere. Del vino. Some wine. Del vino. Ottimo. Excellent. Ottimo. Una bottiglia d'acqua. A bottle of water. Una bottiglia d'acqua. Naturale. Still. Naturale. Gassata. Sparkling. Gassata. That's a lot of new language, so take the time now to test yourself. After you hear the English, say the Italian equivalent in the pause, and then repeat the correct answer in the second pause. For the second course. Di secondo. A mixed salad. Un'insalata mista. For me. Per me. Some sheep's cheese. Del formaggio pecorino. To drink. Da bere. Some wine. Del vino. Excellent. Ottimo. A bottle of water. Una bottiglia d'acqua. Still. Naturale. Sparkling. Gassata. And now listen to the dialogue. Ed ora ascolti il dialogo.